l'email di redazione ondarossa@ondarossa.info, nonché l'email della trasmissione. Potete scriverci a fantasma@ondarossa.info. E quindi per proporci le vostre iniziative e per segnalarci le vostre autoproduzioni. Saremo ben felici di passarle da queste frequenze. Nonché, se volete sottoscrivere anche attraverso le vostre autoproduzioni, e così con l'effetto duplice di farvi conoscere, nonché arricchire il banchetto di Radio Onda Rossa, scriveteci. Non per ultimo il numero di telefono 0649 1750. Siete timidi? Volete comunicare però l'apprezzamento a quello che si passa da queste parti? Potete farlo attraverso lo storico trilletto. Come funziona il trilletto? Componete lo 0649 1750, lasciate fare uno squillo e poi attaccate. Non ci offendiamo. Magicamente, come sta avvenendo in questo momento, lo studio di Radio Onda Rossa si illumina di una lucina rossa e noi ci fomentiamo. Nel frattempo sotto vanno gli Zona d'Ombra, dal loro ultimo lavoro Guerra all'Apatia. Come già sentito nello spot a inizio trasmissione, ricordiamo l'appuntamento di sabato 9 aprile. E quindi il corteo dalle ore 16 da Largo Augusta. Fama capisse. Non abbiamo mai creduto alle loro promesse. È sempre il momento giusto per alzare la testa. E quindi riprendiamoci casa, spazi, salute, sapere e spazi verdi. Sabato 9 aprile, ore 16, Largo Augusta. Poi dopo il corteo, tutte e tutti siete invitati a partecipare all'iniziativa di finanziamento per Radio Onda Rossa, alle Cagne Sciolte, e quindi in via Ostiense 137. Quindi dalle ore 18 la presentazione del libro Politiche dell'orgoglio, sessualità, soggettività e movimenti sociali, con il curatore Massimo Prearo e con i compagni e le compagne della trasmissione Profondo Rosa. Poi a seguire dalle ore 21 una cena a sottoscrizione per Radio Onda Rossa e con musica con i DJ della radio, con le DJ della radio. E quindi le Cagne Sciolte, via Ostiense 137, sabato 9. Da Formia Latina. E loro sono i Gioventù Bruciata. Qui dal vinile uscito nel 2013. E quindi dagli forte un abbraccio a Simone. Come me. anche lui odia tutto, odia tutti voi, odia tutto, odia tutti voi. Fate mai i cazzi vostri, la vostra faccia mi fa cagare. Non mi riesce a comandare. Odio il vostro modo di vestire, odio il vostro modo di parlare. Negli altri c'è quello che in me non riesco a sterminare. Il tuo sorriso ipocrita a me fa vomitare. Odio tutto, odio tutti voi. Odio tutto, odio tutti voi. Hey Bull Brigade, questo oddio che giorno è? 40 ore a settimana frenesia, le truppe marciano. Domani 8 aprile suoneranno qui a Roma insieme alla Furia, No More Lies e Istinti Ostili. E sabato mattina dalle ore 11 circa i Bull Brigade saranno qui negli studi di Radio Onda Rossa e quindi ci faremo una chiacchierata. Non li faremo entrare se non buzzano coi piedi. Eh sì, qualche dischetto per il nostro banchetto ce lo devono portare, eh? Quindi sabato mattina intorno alle ore 11:30 per una chiacchierata qui dai microfoni di Radio Onda Rossa e loro sono i Bull Brigade con Motor City. Così. Motor City, Pazzeschi.

Quindi Radio Onda Rossa e Kalashnikov Collective ancora una volta. Dai forte, grazie mille. Questa ce la riascoltiamo da capo, eh? Da Living in a Psycho Chaos Era, anzi no. Ne voglio ascoltare un'altra. No, vi faccio ascoltare un'altra. E vi faccio ascoltare la seconda traccia, che è Aratri d'ossa scheggiate. Dai. No, devo interrompere, perché da queste parti il trilletto è un come again, quindi da capo. Kalashnikov Collective, Radio Onda Rossa. mea culpa. No, giustamente arrivano le lamentele perché vivi in un'era di caos psichico, non si interrompe, è vero. E quindi passiamo anche, vivi in un'era di caos psichico, e poi passiamo al agli estratti live del concerto dei Doom. Dai, yeah. E iniziamo con il primo estratto. Guardi. Dal concerto della scorsa Pasquetta, avvenuto allo Strike, e che ha visto i Veranos Dogs, che già ascoltiamo in sottofondo. Quindi una band di recente formazione, ispirata a Bolthrower, Terrorizer, tutta quella robaccia lì. Quindi old school death. Quindi un saluto a Massimetto, Pablo, Ulderico e Pompeo. loro sono i Veranos Dogs. Noi siamo i cani, i Verano Dogs. Prossimo pezzo, Virus Lutale. Prossimo verso, Tafu di Marte. Thank you. bella. E passiamo al secondo gruppo che è salito sul palco. Stanza 27, l'angolo dello spazio pubblico autogestito Strike. Loro sono i No Prove da Viterbo. Quindi un ottimo esempio della tuscia punk hardcore, sempre registrato live. Loro sono i No Prove. grazie raga, noi siamo in prova, siamo fuori luogo, poi dopo ringraziamo. Che c'ho qua? Dice sei arzi a chitarra mia spia. Comunque raga, ringraziamento a Cioccolata, batterista dei sostituzioni. Fategli un applauso. Gli avevo permesso di suonare con noi, raga. Era il sogno della sua vita. Allora, il prossimo pezzo si chiama Scintilla, è esplicitamente dedicato a Iskra e non a chi fa i comizi elettorali anche quando si commemorano i morti. Dio che bucio di culo, raga. Vabbè, l'escursione prima di suonare mai più. Ovviamente, l'idea del cazzo. Questo è il pezzo con i featuring, ma che noi famo sempre senza featuring, perché sono tutti inaffidabili. Non si può dire. Dai, gruppo, ragazzi, oh, pure voi. Voi sentite solo Ramiro, pure voi. C'è solo Ramiro, raga. No, no, no, veloce, vai. Il tuo stato mentale, la tua rabbia che sale, di nuovo la terra, di isolarsi sotto i tuoi piedi. Hai deciso di restare, ancora fermo ad aspettare, ma hai capito che comunque non saranno niente ad agire. Gabbia impossibile da aprire, nascondito che aprirà il vestito dalla mostruosità. Di una società che avanza inesorabile, marcia al progresso, regresso verso la tomba, verso la tomba dell'umanità. Guarda quello che accade, cerca di urlare, usa la testa, ora prova a reagire. Distruggi ignoranza, distruggi le mura di questa misera testa. Non si fa niente, porco Dio. La ragione agli sotti, vista da sei meritevoli, di vedere il mondo con gli occhi di chi lo vuole cambiare. Di chi lo vuole cambiare. Red, grazie dei cori, grazie Red. Sei lì, ridicarsi di professione, venite a me. ci aiuta Gabriele, perché viene da un paese che è quasi colonia della Tuscia, solo che c'hanno le fabbriche al posto del tufo. Oh, quindi in pratica è una merda. E su queste parole passiamo ai Disforia, attivi dal 2000. Noi non ci siamo mossi da Colleferro comunque oggi, una coerenza. Quindi Disforia, influenzati dal D-Beat di Discharge, Extreme Noise Terror, i Wretched. E non a caso i Doom. Lo sceriffo! Loro sono i Disforia. Disforia. Thank you. E dopo Disforia siamo giunti ai Doom. Ricordiamo che i concerti passati questa sera saranno pubblicati in versione integrale sul sito di Radio Onda Rossa, quindi andando a cliccare su Palinsesto poi giovedì e andando a cercare il link per la pagina di Do It Yourself Invasion insieme al podcast saranno appunto pubblicati i concerti per intero, quasi tutti, perché forse, ma chissà, vabbè, quello che manca, insomma, fatevi saltare, come si dice, la mosca al naso, mi dicono. Ciao! Can we have a bit more vocal in the monitor? In this monitor. Come shut up. To catch a fire. This is about me and you. It's called Lost a Fight. Ventotto minuti nel territorio di Apostasia, che ringraziamo come ogni volta per la tolleranza verso Do It Yourself Invasion. Dici neanche tanto, eh? Vabbè, una tolleranza così superficiale. Dico. Come dice Bertolaso, tolleranza zero, mannaggia. Quindi rimanete all'ascolto perché tra poco inizia Apostasia. L'appuntamento è per giovedì prossimo dalle ore 21 alle ore 22. E quindi Kalashnikov Collective racconta le nostre lettere a Do It Yourself Invasion. Lo ricordiamo, una presentazione di un progetto appunto nato appunto dalla collaborazione di questa trasmissione con i Kalashnikov Collective. 5 brani scritti, letti e musicati dai Kalashnikov Collective. Lo andremo a presentare giovedì prossimo, quindi non mancate. Un saluto a tutte e a tutti all'ascolto. Grazie, grazie, grazie. Il nostro saluto più caro va a tutte e tutti coloro che si trovano privati della libertà. Noi vi lasciamo ancora con l'unica occasione al momento per ascoltare la registrazione dei Doom. E poi chissà, chissà. Dai, forte!